Europa 24. Buongiorno a tutti da Daniele Biacchiesi, questa è Europa 24 per il secondo trimestre 2014. Bundesbank prevede una fase di stagnazione per l'economia tedesca, con il PIL che dovrebbe restare sullo stesso livello dei tre mesi precedenti. Lo scrive la stessa banca centrale tedesca nel suo bollettino mensile che è stato pubblicato quest'oggi. Per la Bundesbank, infrenata ad aprile-maggio l'industria e il settore edile. Senza una svolta espansiva e l'abbandono delle politiche di austerità, gli obiettivi di Europa 2020 resteranno solo sogni nel cassetto. È quanto sottolinea oggi il ministro dello sviluppo economico Federica Guidi durante la riunione informale dei ministri delle competitività dell'Unione Europea che è in corso a Milano. Questo vertice è stato preceduto ieri sera da una quadrilaterale con il ministro francese Montebourg, il tedesco Gabriel e lo spagnolo José Manuel Soria. Renato Brunetta, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei Deputati, in un editoriale pubblicato dal giornale, interviene oggi sul tema della flessibilità. Trucco, così il commissario pro tempore agli affari economici e monetari dell'Unione Europea, Katainen, definisce la battaglia di Renzi sulla flessibilità in Europa. Purtroppo, scrive Brunetta, ha ragione, siamo al punto che o si fa l'Europa o si muore, ed è l'unica vera strategia per fare l'Europa oggi si basa su quattro leve da azionare contemporaneamente, ha sostenuto Brunetta. Sale la tensione tra l'Unione Europea e la Russia alla luce della crisi in Ucraina e in seguito all'abbattimento del volo MH17, mentre i leader di Francia, Germania, Gran Bretagna stanno valutando la possibilità di nuove sanzioni. Anche l'Europa, come gli Stati Uniti, potrebbe decidere di applicare pesanti sanzioni contro la Russia se questa non collaborerà nelle indagini sul Boeing 777 della Malaysian Airlines abbattuto la scorsa settimana nei cieli dell'Ucraina. La questione potrebbe già essere esaminata domani dal Consiglio Europeo degli Affari Esteri. I leader di Francia, Gran Bretagna e Germania chiedono un'inchiesta più neutrale possibile e il presidente russo Putin risponde offrendo piena cooperazione. Mosca farà tutto il possibile perché il conflitto nell'est dell'Ucraina si sposti dalla fase militare al piano diplomatico, ha detto Putin. Il ruolo di mediazione, secondo il Cremlino, dovrà essere giocato dall'Italia. D'accordo il ministro italiano degli affari esteri Federica Mogherini, che dalla riunione di domani si aspetta una reazione unitaria e forte. Spero che non ci siano grandi differenze nella reazione che prenderemo con i miei colleghi dell'Unione Europea. Il ruolo della presidenza italiana sarà quello di facilitare il consenso, ha detto la Mogherini, riferendo di aver invitato al Consiglio il collega ucraino Klimkin per un aggiornamento sul recupero dei corpi e sull'accesso degli osservatori alla zona in cui si è schiantato l'aereo. Livia Zancaner, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Vi saluta qui Daniele Biacchesi per Europa 24, è tutto. Europa 24, in collaborazione con Euronet Plus.